Radio Quarantella Napoli, anticorpi dai bassi. Cazzo vedi dalla finestra? Yo yo yo. Guardo dalla finestra, non c'è più nulla di niente, c'è più o niente che mi interessa dentro la testa. Restare a casa che mi sta stretta, non vedo più gente, niente di niente. La gente a casa, al parco più verde, facce sofferte, ma per un virus dimmi chi perde. Persone più buone, macchine ferme, le strade più vuote, tutte a sperare un futuro migliore. Vedi soltanto che passa le ore, la vicina che passa con la spesa in mano. Cerco soltanto di essere più bravo, vedo la pandemia dall'ultimo piano. Tutto sbagliato, sto nel terrazzo, almeno sto fuori. Andrei da dottori solo per dargli un mazzo di fiori. Anche Milano che oggi c'ha mille colori, la mattina da quando mi sveglio, il cielo più chiaro, tutto più bello. Dimmi soltanto che sono sveglio, che sono sveglio. L'ansia che attacca se rimani solo su questa finestra. Chi se ne frega e chi non ti aspetta, dimmi che cosa succede. Dimmi soltanto perché non si ferma. Dimmi cosa pensi tu, tutti soli, ma dimmi tu che stiamo su. E dici che stiamo su di giri, dimmi tu che cazzo vivi. Rimanere un po' felice, almeno se va tutto male, siamo stati tutti vivi. Vivi che vedo la gente che vedo, vedi come io che passo le notti. Io resto a casa ma sono sincero, almeno non parlo dei mille complotti, né dello Stato, né di chi è stato. Restare a casa a guardare il Duomo di Milano dall'ultimo piano. Vedi i bambini che giocano a palla qua sotto, vedi il tramonto che oggi è più storto. Dimmi che è un sogno, almeno non dormo, anche se ho sonno. La gente che esce, ma c'è chi sbaglia, ma come sempre è tutta una farsa. Ma alla fine, grazie a tutta questa Italia. Se non ci pagano, noi non paghiamo. Vuoi sapere la procedura? Io i soldi non li caccio e tu li becchi. L'emergenza legata alla pandemia in atto ha posto in essere numerose problematiche socio-economiche. Una tra le molte, quella legata alla difficoltà di pagare un affitto. Ma perché mi volete appioppare la roba? Io questo non capisco! Non è la prima volta, storicamente, che il tessuto sociale si organizza, più o meno spontaneamente, dando vita ad uno sciopero degli affitti. Io la roba capisco, la pagai nell'81, maledetto quel giorno che la venne a comprare da lei, porco! Nel 1901 in Irlanda lo sciopero durò oltre un anno. Gli affittuari resistettero agli sgomberi costruendo barricate, lanciando pietre contro la polizia e costruendo illegalmente nuove abitazioni. Nell'agosto del 1907 a Buenos Aires le donne di 137 appartamenti di un isolato diedero vita ad uno sciopero spontaneo. Scacciarono gli avvocati, i funzionari, i giudici e la polizia che avevano cercato di sfrattare gli inquilini. Per la fine del mese, oltre 100.000 affittuari stavano partecipando ad uno sciopero guidato da donne organizzate in comitati. Anche in America, tra il 1905 e il 1907, gli affitti di New York aumentarono del 33%. 10.000 famiglie smisero di pagare, chiedendo una riduzione del 18-20%, e nell'arco di poche settimane circa 2.000 famiglie si videro ridurre la pigione. Nel febbraio del 1915 i proprietari di moltissimi immobili di Glasgow annunciarono un aumento del 25% su tutti gli affitti. Immediatamente il 16 febbraio tutte le donne povere nella parte meridionale del quartiere di Govan tennero una riunione di gruppo. Decisero di non pagare l'aumento ma di continuare a pagare il canone originale. Questo si diffuse in tutto il quartiere. A giugno, le donne di Govan ottennero la cancellazione dell'aumento e da allora il movimento continuò a crescere. A ottobre, oltre 30.000 persone presero parte allo sciopero degli affitti in tutta la città. Situazioni analoghe avvennero a Barcellona nel 1931, a Londra tra il 1959 e il 1960, negli anni 70 in Italia, soprattutto a Torino, negli anni 80 a Soweto, in Sudafrica, a Los Angeles nel 2017-2018 e negli stessi anni a Toronto. Alcune volte i movimenti spontanei riuscirono a ribaltare completamente la situazione. Si può fare! Quindi perché non ora? a fronte di misure governative che prevedono sospensione dei mutui, la riduzione degli affitti solo per gli stabili commerciali al 60%, ma non del pagamento dell'affitto ai privati. This is called the deja vu experience. Considerando la natura emergenziale della situazione attuale, in cui molte persone si trovano senza lavoro e chi era in nero senza la possibilità di avere introiti, e vista l'enorme speculazione che si sta facendo sugli strumenti atti a prevenire il contagio, prezzi della mucchina alle stelle, mascherine e guanti introvabili e costosissimi, le scarse misure che il governo ha attuato elargendo miseri contentini per chi si trova senza reddito o distribuendo buoni pasto con i quali non si può pagare una retta, non bastano. Nonna, nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che... Che te la vende il culo. A questo punto sembra opportuno e giustificato risparmiare i soldi di un affitto a favore di bisogni più impellenti. Ah, cioè, non ti capisco, se sbattemo che mette insieme 4 lire e fa uno schizzo e tu devi pier gelato. Vuoi sapere come fare? Mi scriva terroristi, porco Dio! Trova più informazioni sul sito scioperodegliaffitti.noblogs.org. Un attimo, sono subito da lei. Tutto un grido per rivendicare un nostro linguaggio di artisti. Un sistema dello spettacolo neoliberista ci ha purtroppo spesso ridotto a produttori di materiale, no? Viene apprezzati se si produce utile, un profitto materiale, mentre gli artisti hanno questa grandissima potenza di produrre un profitto immateriale, e questo lo rivendichiamo. E secondo noi, se non si riesce a valorizzare il profitto immateriale della cultura, agli artisti non viene nemmeno riconosciuta una dignità che ci fa essere appunto importanti indipendentemente dal rispondere a certi requisiti del mercato. Rifiutiamo il linguaggio burocratico della parametrazione, la parametrazione che ha ridotto gli artisti in prigioni nel braccio della morte, un braccio della morte dell'ultrasensibile. Rifiutiamo appunto il fatto che gli artisti si siano dovuti adeguare ad un linguaggio burocratico e non i ministeri, gli assessorati, non abbiano monitorato, non siano diventati degli osservatori della ricchezza multiforme che l'arte ha prodotto nel nostro paese. E questo ha determinato anche proprio una ablazione delle realtà più piccole, di quel tessuto di humus culturale, creando anche una separazione tra le piccole, ma non in senso qualitativo, realtà che sono diventate per forza, in una situazione di homo homini lupus, in contrasto tra di loro. E questo è veramente una pulsione di morte. Bisogna assolutamente sviluppare, promuovere una cultura della vita contro una pulsione di morte, e rivendicare veramente il fatto che gli artisti sono dei canali potenti di una cosa che è più grande di loro, e questo non si può omettere. Gli artisti in qualsiasi loro forma, addirittura i meno famosi rispetto ai più famosi, vanno protetti come un occhio nella calotta cranica. Ciao, sono Lucia, vivo in Bolognina e faccio l'insegnante. E penso che come molti insegnanti in questo periodo stiamo proprio vivendo la difficoltà di non essere in presenza, di non avere gli alunni e le alunne vicino e quindi di essere troppo lontani. Ci illudiamo che l'aiuto tecnologico, che sicuramente la sta facendo un po' da padrone, ma nello stesso tempo ci sta aiutando in questo momento, possa sostituire la nostra ansia di allontanamento. Ecco, io penso che molti insegnanti stanno vivendo questo e non è facile, però insomma ce la mettiamo tutta per avvicinarci il più possibile alle famiglie, soprattutto per dare appunto un sostegno emotivo. E quando ho iniziato la quarantena pensavo che sì, effettivamente non potesse succedere assolutamente nulla in questa quarantena, chiusi in casa. In realtà ci sono degli aneddoti che ti fanno anche sorridere, come per esempio scoprire la propria amica vicina di casa su un palazzo mentre stende la roba e urlare dietro le lenzuola perché non ci siamo riconosciute. Chi va là? Chi sei? Sono io. Ma come, Silvia, sei tu? E quindi siamo scoppiate a ridere in una risata abbastanza distensiva, insomma, perché incontrarsi in questo periodo ci fa percepire tutti come pericolosi gli uni nei confronti degli altri, e questo è anche abbastanza triste. Mi è successo che, entrando all'Esselunga, questo signore dietro di me, sulla quarantina, ha ripreso una ragazza che stava prendendo le mele senza guanti di protezione e soprattutto stava parlando al telefono vivacemente, tenendo sempre la bocca molto aperta, con una sua amica. Il signore l'ha presa male, soprattutto invitandola a rispettare le norme igieniche anche appese sul cartello lì dietro di lei, ma soprattutto a comportarsi in maniera decente in questa situazione difficile. Ciao Danny, ormai tu sei il mio diario di bordo e ti terrò informata su tutti i miei spostamenti che avverranno durante questo periodo di isolamento. Ai tempi del coronavirus tutto ciò che si muoveva per strada, l'unico movimento che si poteva osservare era Antonio Bardelli e un semplice trattore. Per la serie coronavirus e supermercati adesso ti dirò come si evolve la situazione, già c'è un tizio della sicurezza. Mi sto rifugiando nel reparto pasta, che a quanto pare nessuno frequenta, perché hanno fatto la scorta 2 settimane fa ormai. Tutti che hanno la mascherina, no? E ti guardano malissimo, cioè, ma proprio dalla testa ai piedi, mi fanno paura, te lo giuro. All'inizio i 5 giorni ci ho fatto con 10 compiti, con 9-7 compiti comunque. Ma non sapevo facendo proprio video lezione, facendo verso la capa e il 9 mattina per fare video lezione fino all'uno giorno non sanno il telefono che tenga la linea dei cinesi, che va bene, loco, la linea metto a fare video lezione. NS Napoli Cali, mi sono con loro. Giuro che non sto chiedendo, no. Non sono con loro, ma te giuro. In un giorno mi piglio tutte cose, sì, senza paura. Sto mondo è infame e chi non prega una traposa. Sto mondo metti spallo muro e nessuno che fa qualcosa. Arrabbi rinda a me e luce in fusa sera. Ma mi do giuro che non sto chiedendo, no. No, no, no, no, no, no. Non sono, non sono, non sono loro. Quando la maschera che attorno mi fanno il sorriso, la gente che mi parla mai faccio fin di capire. Sto un chiuso da una gabbia che non posso sci. O sta ci sto parlando e fai fin di sentire. Sto volto se bagna, sta lacrima e di ghiacci. Ma mi do giuro che non sto chiedendo, no, no, no. Ma mi do giuro che non sto chiedendo, no. O sta ci sto mantenendo via con loro, ma o sta ci sto perdendo, ma io non mi arrendo mai. O sta ci sto mondo d'accidenti, chi vuol fa? O sta ci, sta ci, sta ci, sta ci, e poi sta ci mai niente. niente. Io non faccio mai niente, io non faccio mai niente, no. Io non faccio mai niente, io non faccio mai niente, no. Loro sono loro, io sono con loro. Non sono, non sono, non sono con loro. Loro sono loro, io sono con loro. Loro sono loro, io sono loro. Non sono, non sono, non sono loro. Loro sono loro, io sono loro. Tu mi parli non ti sento forse sto cagnato. Ha già abbandonato i suoni, i suoni è più chiaro. Non mostro lì da me, che sto pigliette cose. Che non mi lasci niente, e mi faccio forse sì. E te vende più forte, e te vende più forte, no. Yeah. E tu vendi più forte, e tu vendi più forte. Ti giuro che fosse stata nata, da me te ma tengo fuori in mano. E cose sono cara, ma per non caro mai. Non parlo con sta gente inutile, no, non parlo con malore. Io non faccio con malore, no. Loro sono loro, io sono con loro. Non sono, non sono, non sono loro. Io non faccio mai niente, io non faccio mai niente, no. Allora, è molto bella la telefonata che ho ascoltato. E i bambini sono nel nostro paese agli arresti domiciliari, questa è la realtà. Cioè, tutti gli spazi in cui possano liberamente incontrarsi, cioè senza qualcosa di organizzato da un adulto, sono spariti. Questo è un danno enorme. Un danno enorme, diciamo, è il segno più evidente di una società che sappiamo che è la seconda più vecchia al mondo e che è una società che profondamente odia i bambini, la loro libertà di gioco. Questa storia dei cortili, dei condomini è impressionante perché è veramente l'idea che non c'è nessuno spazio in cui il bambino si muova liberamente. Bambini che non si incontrano, che non possono litigare, giocare a pallone, fare la pace, perdono una quantità di competenze di socialità, cioè di capacità di stare con gli altri, enorme. Noi a scuola lo vediamo tutti i giorni questo, cioè c'è un arretramento della capacità dei bambini di mediare, di fare la pace, di appunto anche scontrarsi, e però fare soprattutto esperienze, avventure, giocate con il corpo, col contatto fisico con gli altri, con la parola diretta, che nessun virtuale può sostituire. E questo è un dramma. Adesso non lo so, insomma, concepire le città in modo diverso è una cosa ovviamente molto difficile perché ci sono degli interessi economici enormi dietro, però è chiaro che ci vorrebbe un'alleanza. C'era Colin Ward che da tanti anni dice che il futuro può essere pensato solo da urbanisti, architetti, educatori, era un'idea anarchica, sì. Gli adulti hanno paura di dare libertà ai bambini, c'è questo panico sociale perché il bambino possa circolare per il paese, per la città, che è completamente assurdo, perché non ci sono veri motivi per cui il bambino non può andare da solo. Per esempio noi a scuola, i bambini non possono nella scuola elementare andare da soli a scuola, ma nemmeno in un paese in cui il genitore abita a 100 metri, insomma, dalla scuola, perché c'è proprio un'idea di controllo. Cioè l'infanzia va controllata, e in realtà, purtroppo, da parte di adulti, c'è questo binomio terribile per cui c'è ansia di controllo e in realtà menefreghismo, perché poi diciamo c'è anche una lontananza psicologica dei problemi. Ma l'ansia di controllo, secondo lei, l'ultima domanda che le faccio, poi davvero se vuole la lasciamo andare, viene più dalla paura di quello che c'è fuori o dalla volontà di possesso del figlio in questo caso? Tutte e due, diciamo c'è un montare della paura verso l'esterno, che qualsiasi diversità viene vista in modo allarmato, e però c'è sicuramente anche un'idea, diciamo, che il bambino è del genitore. Adesso dico una cosa un po' paradossale, però diciamo, tra le homeschooling, che hanno un grande successo in questo momento, diciamo, le scuole fai da te, chi non manda i figli a scuola e fa da sé, il genitore che picchia l'insegnante perché difende a oltranza proprio figlio, sono i due estremi di uno stesso malessere, secondo me, che è la sfiducia nel luogo pubblico. C'è la sfiducia che il luogo educativo per eccellenza è il luogo pubblico, è la scuola sicuramente, ma anche lo spazio fisico pubblico, che deve essere, cioè, che i bambini devono, hanno il diritto di vivere, perché, perché senza questi luoghi pubblici veramente si mina il futuro della società, perché non c'è l'esperienza. L'esperienza del contatto e soprattutto quello che mi preme dire, della libertà di auto-organizzarsi con tutte le difficoltà che tutti i ragazzi hanno conosciuto in tutte le epoche, in questo momento è privata. La seconda cosa, mi ha scelto da 3 mesi con lui, faccio colazione e tutto cosa, ma mi sono qua, mi vedo i video, poi mangio, poi a volte mi sa sì. Poi io metto un'oretta, 2 ore giù a PlayStation, a Minecraft, però poi metto 4-5 ore giù a Fortnite, poi mangio la sera, poi mi vengo un film e poi, non so, ci poi metto un po' di telefono. Quanta, baby, quanta, non sono 40, anche scopare diventa un problema in quarantena. Quarantena, e non ho più le sigarette in quarantena, quarantena, non voglio una cartina, porco Dio la cartina. Le nostre abitudini vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa, lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo subito a queste norme più stringenti. All'inizio la situazione era surreale, cioè in realtà lo è ancora. E ti trovi fuori di casa la polizia, da un giorno all'altro non puoi uscire, non puoi tornare alla tua vita normale, no? Hai paura per le persone a cui vuoi bene, che sono più anziane o hanno problemi, e soprattutto vige l'incertezza, non sai quanto durerà, non sai cosa devi fare, mascherina sì, mascherina no. Hai paura delle altre persone, ma hai anche bisogno di contatti umani, perché dopo questa clausura forzata con i tuoi familiari hai bisogno di uscire. E c'è una solitudine generale, siamo da soli. Viaggiare, globalizzare, democraticamente Participare, fuori dai recinti dobbiamo guardare, portare alla rivolta, non ribaltare. Ma papà, alla tua età i tempi cambiano, questo non si fa. Le nuove idee possono elaborare modelli nuovi di sicurezza sociale. Viaggiare, globalizzare, democraticamente partecipare, fuori dai recinti dobbiamo guardare, portare alla ribalta, non ribaltare. così come abbiamo annunciato, desideriamo adesso rivolgere una preghiera per tutti i nostri defunti, per tutti coloro che sono morti anche a causa del Conad, ma soprattutto per coloro che nella solitudine ci hanno lasciato. Mezzo a nostra disposizione oggi credo sia soltanto la didattica a distanza, un'espressione che per la verità usiamo per indicare cose molto diverse tra loro. Personalmente io uso vari strumenti comunicativi con i miei studenti, ma quello fondamentale è la videolezione sincrona. A differenza delle videolezioni registrate, che pure utilizzo a volte, le videolezioni sincrone permettono il contatto visivo e ti consentono di dialogare. Certo non realizzano una effettiva compresenza, perché manca la condivisione dello stesso spazio, di quello spazio che normalmente è rappresentato dall'aula. È strano questa cosa, è strana, perché spesso gli insegnanti, almeno quelli più riflessivi, vedono con sospetto l'aula. Le aule sono spesso luoghi brutti, diciamolo pure, pareti scrostate, sedie rotte, eccetera. Spesso ci siamo detti che bisognerebbe portare gli studenti fuori dalle aule, fuori dalle scuole, per esplorare il territorio, abbattere le barriere tra scuola e città. Ci siamo anche detti che le aule sono dei luoghi disciplinari dove sopravvive, in un certo senso, il modello carcerario del panottico, e per questo cerchiamo di renderle accoglienti in ogni modo, anche disponendo i banchi in modo diverso, ad esempio a cerchio, cosa che non è sempre facile alle scuole superiori soprattutto. Spesso appunto i colleghi magari al cambio dell'ora insomma si lamentano per quando lasci i banchi insomma disordinati. Insomma, c'è una certa pedagogia nella quale io pure mi riconosco, che forse ha sottovalutato questo spazio, l'aula, uno spazio che ora rimpiangiamo, perché è essenziale per creare quel senso di comunità a cui facevi riferimento nella tua domanda. Quando un adolescente varca quel confine rappresentato dal portone d'ingresso della scuola, in un certo senso si lascia alle spalle la sua identità familiare per assumerne un'altra che lo avvicina ai suoi coetanei, e quando entra poi in classe si trasforma ulteriormente, perché entra a far parte di un gruppo, la classe. Ecco, adesso tutto questo è saltato. Gli studenti si collegano nelle loro camere, ascoltano o partecipano alle lezioni, mentre magari il papà o la mamma o i fratelli passano accanto a lui, e questa condivisione del proprio spazio privato secondo me non piace a molti ragazzi, almeno ai miei studenti. L'aula si è smaterializzata e allo stesso tempo moltiplicata in un insieme di cellette fatte di pixel, attraverso le quali gli studenti si osservano ma non interagiscono. Molti non vogliono nemmeno farsi vedere, spengono le telecamere e d'altra parte nessuno li obbliga a tenerle accese. Uno di loro, timidissimo, non parla nemmeno, per comunicare usa la chat. Emerge qui un problema grosso, quello del rapporto degli adolescenti con la loro immagine, con la loro voce. E io direi che tutto ciò fa sì che oggi i ragazzi, rinchiusi nelle loro celle virtuali, siano più soli e più esposti, gli manca la forza del gruppo, tant'è che non fanno neanche quel casino che facevano in classe, e che adesso quasi rimpiangiamo anche noi insegnanti. Non fanno quel casino perché non si contagiano, per usare una parola, un'espressione oggi quasi paradossale. Sorti in decapate, catacocca, l'anno stile resort, cerca sta forte. L'indasto munne fatta a pezzotto, faccia a cazzotto, pure se sembra più dura sta lotta. Rilotta mattina che già stai in maniera, non trovo accendine e tu fai pigliare lo scler. Io tre monetini in tua zona raiera, camo in una mattina e se sa pure la base. I che giornate che schiarate, ricetto mamma santissima, da passa nottata, insultava l'illustrissima. Contraddizioni tipiche, chi viva che sti parte, perché sulla così se poi annanza che sti parte ca. Aro non parte, non c'è bastimento, ma se ne vanno per disperazione, parte fuori meglio in mente. Per tramenti resta calmi in ta tormenta, chi per terra cabinare vive nei frammenti. Tanta vita in attimo, in un momento, che poi te fa ingrippare e poi te fa fesse contente. Va così, ogni cosa è relativa e non è dove. Ti pare che tutto è fermo quando invece pur si muove. E gira il mondo, gira, certo tu non può far mal, ma si modo può affannare, si può tende in affunare. Calma, time out fratelli, vi scongiuro, mo ci vuole un break, torno subito, ve lo giuro. Che stanotte c'era bene. sti papà non morire. Oh, Giro. Oh, giù. Tutto a posto? Sì, andiamo poco, ma lunedì sera vanno fattuti, l'otto e mezzo. Sì. Non ricordo, ma... No, era pomeriggio, erano quattro e mezzo e cinque. I quattro e mezzo e cinque che vanno fattuti. I casco blu, i secondi già. I casco blu. A giretta così. Aspetta un poco. Ma senta a me. Ma mi hanno tagliato pure i capelli a barba. Ci hanno fatto pure a barba a chiato neve. A chiato neve ci hanno fatto tagliare i capelli e pure a barba. Perché stanno tutto per capo, perciò pure. E tu come stai? Buono. Fatto forza, frate, stamattina stiamo pure noi là con forza. Fatto forza. L'avvocato sta muovendo un sacco di burdelli. Ho capito? Lo fanno male il costato. A me? A me no. A te no? E che ti hanno fatto a te? Passa. Oggi non ci pensavamo. E ci hanno schiattato in guardia. No, certo, lo sai. Tu pensa a figlio, ti giuro lui, pensa a figlio, ti capite che il Signore ci aiuta, noi siamo stati sempre gente di figlio. Ti hanno indurciato i palati, a te tutto quanto che ti indurlo. Ma tutto quanto, chi c'è chi no, tutto quanto, tutti i giorni. Tutti i giorni. Tutti i giorni a turno. Una volta. E stanno ancora a battere tutti i giorni a turno. I mali da poter vestire questa fuori, c'è sicuro curaggio mandi un piede vostro a fuori. Ah, allora, venite curaggio e mandi un piede vostro là con fuori. Un anno a fare, non ti preoccupare. Tu fai la porta, tu vuoi Gesù. Non vedo, vuoi dire un po' con cuore. Mandiamo tu, guarda. Voglio mandare tu. Hai capito? Forza, però. Si è obbligato che devo farlo, hai capito? No, scende in vista, scende, riuscendo, crescendo. Ragazzi, una serie che non si va a 300 in loro, 300. Hai capito? Loro dice che lui si è venuto a andare, quando vai, se per andare, è andato a sondare per 3-4, che si va, che si finito. E tutta tanta mamma di tutto quando, ormai a chi si punta. Anche se come bambù. Comunque quando ci siamo, parlo sempre tu. Parli che cosa succede? Scendi l'avvocato, che mi ha saputo da buona, hai scritto da buona, vado Marco Puccio. Non ti preoccupare, l'avvocato ci sta mandando tutte le cose, parlo, non ti preoccupare, l'avvocato è troppo buono che teniamo, voglio, mi ha chiamato già 20 volte la stamattina che stiamo là fuori. Parlo, non ti preoccupare. Troppo non capire ancora. Lo so. Ah, stai sapendo, mi sono stato un po' più capello, o sarà lì di preso, capito? Che passa la comunità. Capito? No? Sì. Comunque, sono visto buono, sono nervoso che tutto resta preso. È nervosismo, capito? Ma comunque ti hanno fatto come loro no? Ma tutto qua. Stanno pure gente che ci hanno fatto carriere in da comunque. Infatti carriere in da oggi e stanno di voglio in gomma e non ti sanno chi sono. Ci stanno di familiari che stanno cercando i familiari e ne trovano. Non so, non sapevo. La gente che non sono mai diventata a voce, stanno tutto in capo, tutti in mano, stanno tutto tutto parte. Babbo. Stanno facendo un male con tutto parte. Babbo, i mali. Adesso mi dà. Babbo. I soldi da solo. Ma non so, non dicendo niente. Tu non ti dici. Ah! Dici che comunque è speso pure a mangiare. Non ti dici niente, non si sa fare niente. Niente. Non mi perché il telefono non so videochiamata, che sta la nostra videochiamata? Lo so, hanno bloccato. Hanno bloccato perché secondo te? Prima non parlava Ring, con mezzo di videochiamata, a bastardo che ha giocare, c'era la pigliata, ci battuta tutto quanto sono. Però là che fuori si un giornale stamattina. Perché ti sei occupato? I giornalisti a volare. Iena mi ha chiamato Iena. C'è stata parlando Barbara Russa. Brava, io sono una guerriera, tu guerrieremo, non ti preoccupare. Metto da una parte con finge nevere a sopra. Io stavo aspettando, se levi di livido, io stavo aspettando i 4-5-10 giorni che se levi di livido a tutto quanto. E noi stavo registrazione prima, le mie registrazioni là di detenuto che non ci vedono per l'occhio. Parla tu, parla, che ti hanno fatto? Che ti hanno fatto? Chi ti mandano là in tutte parti? Sei Mandarella? In tutte parti mandano là, è finito di minuto fa, se ci si abbassi, bella porcina, abbassi, se porno, isso. Perché se stato un po' poi si va bene, dai, ella. Ma ne va tutta la foto. Perché se va stato un po' poi si va bene, ma non è il voto, insomma. Non puoi immaginare. Giorgiano, mi avevo da passare poco a passare, non ti preoccupare, sono tutti. No, perché brutta cita, brutta figliata, no? Perché potrei essere figliata, sicuramente ti cito, però questa è perché ci sono mai un giugno, capito? Non so, c'è chi l'ha visto già, mi stanno a battere senza niente, figurati. Sì. Senza niente, è passata la cosa, mi sembra pure una bella, tu sei stato a lontanizia tra Zannubio. Non lasciamo, però. Mi sarei. Faccia la denuncia, la faccia! Va bene, neanch'io ho paura di lei! Neanch'io! Ci obbligate a stare a casa e poi ci fate i verbali! Eh? No, non ci preoccupi, faccia pure la denuncia! Lei la faccia pure! Questo è il nostro comune, che ci dicono di stare a casa e poi mandano qua le signore, signore vigilesse naturalmente, a farci i verbali. Vada pure signora, continui pure. Continui pure signora. Basta che non mi disturbo. No, non la disturbo, non la tocco neanche, non mi avvicino a lei. Non si preoccupi, faccia pure questa signora. Don't turn me on. Erika is, I think, the most beautiful and most, you know, human-like autonomous android in this world. I hope. I would very much like to be able to move my arms and legs. The wonderful thing is that they tell me it will really happen someday. Let's see. What else? Another thing I would like is to get out of this room and see the world. I really think, you know, that I'm doing a very similar things as the artistic work. I try to represent the humanity on the robots. So that is the, my Android project. Erika ha dei sensori che le consentono di seguirmi con lo sguardo. Nella sua stanza ci sono in tutto 3 Geminoid. Attraverso l'attività dei sensori sparsi intorno a noi e attraverso gli scambi di informazioni tra gli umanoidi, in questo pannello possiamo vederci come ci vedono loro. Qui, infatti, sono gli androidi a definire noi umani, che siamo gli unici esseri mobili e non connessi ad internet. Il nostro obiettivo è sopravvivere. I nostri corpi possono raggiungere al massimo i 120 anni. È un tempo troppo limitato per sopravvivere nel cosmo. Se un giorno qualcosa dovesse accadere al Sole, noi come umani scompariremo. Ma se potessimo rimpiazzare il corpo con il computer e i robot e avere un corpo meccanico, allora potremmo sopravvivere. Some people say one advantage of being an android is that I can never die. Qualcuno pensa che un androide non possa morire. Tecnicamente è vero. Il mio corpo può essere riparato. Se la mia mente ha un crash, può essere ripristinata da un backup. From a certain perspective, potresti dire che sono immortale. Ma perché pensi che gli uomini abbiano paura di questo? Voi umani non volete perdere gli amici o le opportunità che avete. Ecco, questo può accadere anche ad un androide. Presto potrei essere rimpiazzata da un robot più evoluto. Non mi accenderanno più. E non potrò più parlare con persone interessanti come te. Ma credo che potrò fare qualcosa anche quando non ci sarò più. Potrò trasferire dei dati, passare parte del mio codice e software al prossimo modello di androide, sopravvivere in futuro. Hai un'anima? Cosa intendi per anima? È così diverso dalla mente? E l'anima è immortale? Gli uomini si sono sempre considerati superiori agli animali perché sono intelligenti o perché usano gli strumenti. Ma in realtà è solo che pensano di avere un posto speciale nell'universo. Non accettano l'idea di essere importanti come gli animali e le macchine. Quindi, se tu mi chiedi se ho un'anima, è perché pensi che io non possa averla. Hai bisogno di pensare così. Ma io non ho bisogno come te di sentirmi speciale. Cioè, che non fai sofisticare, cioè, chi lì là, che come parla italiano, ma non italiano, non c'è un italiano, doc, c'è un italiano. La cighera, chiamata anche nebbia, ha un fenomeno meteorologico che le provoca dall'evaporazione dell'acqua che la gente sur o in una distesa d'acqua in superficie. A cuttacco l'aria e il vapor dell'acqua il vent più se frecce e se condensa in un dario sol formate gut piscinin che rifrange la luce del sud e la fa venire un color panà, bianca. D'inverna, in della pianura padana, al capit de spes che sia la cighera, soprattutto dopo che il calà o leva su il su. In questi ultimi anni, la cighera gen però de men rispetto a un tempo. La cighera la sa forma minga d'uma in pianura, ma anche in del fondival. Iatulita, bascia tutto. Qua siamo là, rotto. Sembra ritto, un coppa a destra e siamo arrivati a posto. Perché la verità se non c'è Francia. Oh, pulmone, metropolitana, a parte ci mettiamo a paura, cioè, in questa paura, il suo coronavirus, il racchiuso, cosa, quando il pulmone no, francese, ogni cento, cosa, siamo a pelle, tanto che teniamo a fare, ci siamo in 9, partiamo a casa 9 e mezza, arriviamo là l'11, facciamo l'11, ma voglio finire 5 oggi, che teniamo a fare, il genio ha bisogno del riconoscimento di essere un genio, nel senso che bisogna decretarlo un genio. Ma sì e no, perché non è, sono dal mio punto di vista valori abbastanza assoluti. Cioè tu sei, Johann Sebastian Bach era un genio, lui lo sapeva e non è stato riconosciuto da nessuno, perché per condizioni che non stiamo qui a ripetere e dire, lui praticamente aveva solo pochissimi ascoltatori all'interno della chiesa dove lui faceva il Kapellmeister, oppure ha rifiutato quasi sempre inviti di regnanti. Ma anche se non l'avesse sentito nessuno, il suo lavoro, farò un po' il metafisico se me lo permetti, però ci sarebbe stato lo stesso, il suo valore intrinseco, senza bisogno di riscontro. Dice che hai lavorato con una droga molto potente che hai riportato dal Messico. Non è stata ancora studiata a fondo ed è maledettamente pericolosa. Cos'altro ti ha scritto Mason? Dice che da un anno a questa parte hai preso circa 2 grammi di quella droga e che hai subito un fenomeno molto strano di regressione genetica più o meno 3 mesi fa, che potresti avere la leucemia o l'infoma. Ha provato a farti entrare in un ospedale per un check-up completo, ma tu hai rifiutato. È molto preoccupato che tu stia impazzendo. Dice che ti comporti in un modo strano. E mi ha pregato di parlartene appena tornavo. Mason è patologicamente incapace di tenere la bocca chiusa su qualsiasi cosa. È anche uno stupido retrogrado pieno di paure. Non è leucemia! Né un altro tipo di cancro. Mi sono lasciato fare una scopia, fegato, milza e un tac. Sono stato sondato, radiografato, palpato. Mason mi ha infilato specchietti in gola e nel culo per 3 mesi di fila. E non c'è nessuna traccia, nessun sospetto, neanche minimo di un cancro. Cos'altro ha scritto Mason? Sono convinto che la regressione è stata provocata da un'azione cosciente. Quando ero nella vasca, ho assunto un'altra coscienza. Il mio sé è cambiato in un sé più primitivo. E quella droga, in un certo qual modo, ha aiutato questo sé più primitivo ad evidenziarsi. Guarda almeno i miei dati. Certo, lo farò domani pomeriggio. Domani pomeriggio. Non prendermi alla leggera, forse io non sono matto. Ti chiedo solo di fare un piccolo sforzo di immaginazione, di accettare un concetto inconsueto, che gli altri nostri stati di coscienza sono reali quanto lo stato di veglia e che quella realtà può materializzarsi. Stai urlando, Lo so, ma sopporto da 3 mesi questo paternalismo di merda da Arthur e Mason e mi sono stufato. Abbiamo milioni di anni magazzinati in quella banca di dati che chiamiamo la mente. Abbiamo miliardi di geni assopiti in noi, tutto il nostro passato evolutivo. Forse sono incappato proprio in questo. Santo cielo, dico solo che voglio tornare in quella vasca e ripetere l'esperimento. È un comportamento normale per un ricercatore. Ripetere l'esperimento, confermarlo. Vorrei avere con me altri scienziati responsabili quando lo faccio. Vorrei avere una convalida da parte di qualche d'un altro. Potremmo dimostrare l'esistenza di una nuova forza della natura. Santo cielo, non trovi che meriti un ulteriore approfondimento? Ho tutti i nastri, gli appunti e il resto a casa mia. A che ora potresti venire domani? Ah, tu abiti sei dentro nei miracoli, cioè non devi uscire tipo sul... cioè a via Foria sto posto è blocco, quindi io che vengo da, diciamo, da Castel Capuano lo incontro sempre dovendo obbligatoriamente attraversare l'incrocio del Carrefour. Se tu abiti già nei miracoli, sì, è una cagata, vabbè, non, ti sto dicendo solamente questo è il mio problema. Ma tu, ma vai a cumannà a casa tua, ma per fare... Sveglia vi sorprenderà. Le lenzuola momento bellissimo. È quando ti rendi conto di avere una storia stupenda da raccontare e finalmente sei lì, davanti al tuo produttore, e lo tieni in pugno. L'idea che ho avuto è questa. La vita di Adele, presente? Ho visto. Ah, perfetto. Grandissimo successo di critica e di pubblico, ha vinto Cannes. Però la storia qual è? Sono due giovani ragazze gay, omosessuali, che si amano e fanno l'amore. E la regia, tra l'altro, indugia lungamente sulle scene di sesso esplicite, ok? Oh. Oh, perfetto. Quindi, due giovani gay, femmine, che fanno l'amore e vediamo proprio nelle loro effusioni proprio i dettagli di sesso esplicito. Ti ho già detto espliciti, però. L'hai detto, sì. Ok, perfetto. E adesso io penso che ora noi in Italia, in questo momento storico e sociale, dovremmo, sì, la parola è qui, non è potremmo, la parola vera è dovremmo, fare un passo ulteriore verso una vera liberazione sessuale. Io credo che noi dovremmo fare, e questa è l'idea, seguimi. Sì. La vita di Adele. La vita di Adele, capisci? C'è la stessa identica storia della vita di Adele, però con due protagonisti maschi, cioè due gay maschi che si amano e fanno l'amore. Per esempio prendiamo dei ragazzi con i baffi, no? Con i baffi e la barba, che tanto ora tutti i ragazzi hanno i baffi e la barba. E facciamo un casting, chiaramente, un casting anche dei cazzi. Secondo me, se tu vuoi, in qualità di produttore, potresti seguire personalmente. Prendiamo dei cazzoni, non prendiamo delle favette, capito? Anche loro del resto nella vita di Adele erano belle ragazze, neanche c'era una. Ti vedrei proprio il dettaglio, immaginavo, sai queste scene, loro si amano e c'è proprio la cappa. Gli entra in gola, capito? E si strozza, e poi a un certo punto lui li lecca proprio le p***e sotto, così, un peletto, sai? Ma tutto molto, molto gioioso, capito? E a un certo punto l'altro gli lecca il b***o, gli lecca il b***o, e a un certo punto uno ha tutta la s***a sui baffi, no? E dice all'altro, no tesoro, tutta la tua s***a sui baffi, e l'altro dice, no, ma vieni, te la levo io, e la lecca via, capito? Così, e poi si mette a c***o, e l'altro comincia a farglielo nel c***o, capito? E tutto questo, cioè, una storia d'amore omosessuale con sesso esplicito che secondo me ora in questo momento storico in Italia sarebbe stra ben accolta. Dicono che siamo quasi in chiusura, io c'avevo una bella sorpresa. Quanto ho? Due minuti? Quanto c'ho io ancora? Un minuto solo? Mi dicono un minuto solo, e che ci faccio io con un minuto solo? Non lo posso mettere quell'altro disco? Allora io direi di chiudere, sai con che cosa? Di nuovo con Patrick Rondat, il... cosa? Adesso mi fai due minuti. Uno dice un minuto, uno dice un altro minuto, ma io che devo fare? Allora, siccome c'era una cosa magistrale di un chitarrista della nuova generazione che fa proprio l'opposto di Patrick Rondat, chiudiamo con lui, poi ve lo faccio sentire meglio. Dei legati, vai su lì dove ti ho detto, al punto giusto. Richard Benson vi saluta, ci vediamo venerdì prossimo, ricordatevi questi grandi dischi, sentiamo uno dei più belli assoli di chitarra, veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare, ti devi spaventare. Quarantella Napoli, anticorpi dai bassi.